Inizia oggi fino a domenica 24 ottobre la manifestazione Terra e Libertà Critical Guaine a Roma, a Forte Prenestino, che è un centro sociale occupato, autogestito, è un'iniziativa di cooperazione fatta assieme ad altri ambienti romani tipo Deriva Prodi, Equobrio e altri luoghi dell'autogestione. Non è la prima che si svolge in luoghi simili, perché anche a Milano, a Verona, ad Empoli, in tutti i luoghi in cui si è svolta questa manifestazione sono stati privilegiati i luoghi dell'autogestione. Terra e Libertà Critical Guaine è un progetto che intende mettere al centro dell'iniziativa una rivoluzione dei consumi, una modalità totalmente differente di produrre e di consumare le merci, un'iniziativa di grande responsabilità e di etica della produzione, e alla quale partecipano tantissimi produttori, particolarmente dell'ambiente vitivinicolo. In questa manifestazione romana in particolare ci sono 100 produttori di vini, grandi vignaioli che noi chiamiamo poeti della terra, e poi iniziamo con la manifestazione romana anche un'iniziativa che si espande in altri campi agroalimentari, particolarmente nella produzione di oli, nella produzione di formaggi, di pane, di quanto altro sarà presente qui con una serie di produttori che saranno una trentina qua a Roma. Accanto alla presentazione dei vini, che sarà fatta da circa 100 poeti della terra, così noi chiamiamo i vignaioli di qualità che vi partecipano, vi saranno anche dei poeti, degli scrittori che presenteranno le loro riflessioni, presenteranno le loro poesie con la stessa sacralità di pensiero che appunto intendiamo dare alla presentazione dei vini. L'aumento dei prezzi è un aumento assolutamente incontrollato, che non ha ragione né da un punto di vista produttivo né da un punto di vista della qualità dei prodotti, ha ragione semplicemente nel circuito di distribuzione e di commercializzazione nella quale si appropriano ricchezze infinite che non vengono distribuite. Appunto per questo noi al centro dell'iniziativa abbiamo indicato la possibilità, che sarà già attuata da molti vignaioli oggi, di indicare con chiarezza in etichetta il prezzo al quale i produttori vendono i loro prodotti. A noi non interessa quanto vengono venduti nel momento finale, questo saranno i commercianti, saranno le enoteche, saranno coloro che vendono al consumatore finale, che devono spiegare i motivi per i quali vi sono ricarichi così enormi.